Letture di Radio 24. Mozart batte Beethoven 50-12. Il confronto non riguarda il valore dei due musicisti, ma quello dei loro capelli, recentemente venduti all'asta rispettivamente per 50.000 e 12.000 euro. Ma cosa spinge collezionisti e appassionati a spendere cifre folli per avere microscopiche reliquie dei loro idoli? Secondo una ricerca dell'Università di Yale, queste vendite bizzarre si possono spiegare con la teoria del contagio, secondo la quale anche gli articoli più banali possono arrivare a prezzi astronomici, se l'acquirente è convinto che alcune proprietà carismatiche di chi li possedeva vengano in qualche modo trasferite assieme agli oggetti. Niente di nuovo in tutto questo. Quando leggo che qualcuno ha pagato 50.000 euro per una ciocca di capelli di Mozart, 26.000 per un molare scolorito di John Lennon, 38.000 per una radiografia del petto di Marilyn Monroe e 4.500 euro per un fazzoletto nel quale aveva starnutito Scarlett Johansson, la prima cosa che mi viene in mente sono le reliquie dei santi, per le quali molti pellegrini e paesani creduloni erano stati raggirati durante il Medioevo. Naturalmente qui non si parla del vero mondo, ma del mondo parallelo delle case d'asta, dove le confezioni di spugnette della Brillo disegnate da Andy Warhol si vendono a 700.000 euro, mentre nei supermercati si possono trovare identiche a 5 euro. Un mondo assurdo, ma essenzialmente innocuo, verrebbe da pensare. Ma nel mondo della musica classica, l'incredibile venerazione che circonda gli oggetti legati alla grande musica, piuttosto che alla musica stessa, non è poi così innocua. Quando i manoscritti di grandi compositori vengono acquistati e poi accumulati dai collezionisti privati che hanno sufficienti disponibilità economiche per battere all'asta le accademie statali, questi documenti di importanza vitale spesso smettono di essere disponibili per gli studiosi. A volte non sono più consultabili nemmeno dagli stessi compositori. Pierre Boulez una volta mi aveva confidato di aver venduto dei manoscritti al miliardario svizzero Paul Sacher. Quando a Parigi venne organizzata una mostra per celebrare i 70 anni di Pierre Boulez, Sacher si rifiutò categoricamente di mettere a disposizione i manoscritti, anche solo per un breve prestito. Questo può sembrare bizzarro, ma ancora più strani sono i prezzi astronomici che vengono oggi richiesti per strumenti a corda di qualità, come il violino Lady Blunt, che nel 2011 è stato battuto a Sotheby per 14.000 euro. Se questi strumenti finissero nelle mani dei migliori musicisti, sicuramente l'investimento verrebbe ripagato da una vita di guadagni dai concerti, e si tratta di un investimento che cresce continuamente di valore. Negli ultimi 40 anni non c'è mai stato un anno senza che l'aumento del prezzo medio dei violini d'epoca non superasse l'inflazione. Il problema è che raramente i musicisti hanno la possibilità di acquistare questi strumenti. Sono quasi sempre i collezionisti privati, gli hedge fund e altre società finanziarie ad accaparrarseli, spesso per poi tenerli chiusi nelle casseforti, anziché permettere che vengano suonati. C'è però una soluzione a questo problema. Se si prendono per buoni i risultati di una ricerca dello scorso anno, secondo la quale, dopo una prova al buio, anche i più grandi professionisti non sono stati in grado di riconoscere la differenza nel suono tra questi preziosi reperti storici e i violini moderni. Di fatto, 6 su 10 avevano preferito questi ultimi. Questo però se vogliamo ignorare l'effetto contagio. Come per i capelli di Mozart, quello che conta non è la qualità fisica di questi oggetti di venerazione, è il grande fascino che li circonda. E se credete in quel fascino, sarete disposti a pagare qualunque prezzo per averli. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Richard Morrison Is the sale of overpriced memorabilia as harmless as it seems? Dal numero di agosto del mensile BBC Music Magazine. I nasi elettronici, il contaapi, i droni che sorvolano i campi. Ma anche la cottura in lavapiatti. O le fragole sospese. E internet fra i vigneti. E il pomodoro nero. Questo è Foodlab, il programma che vi racconta le tecnologie per il cibo del futuro. Federico Pedrocchi. Chiara Albicocco. Vi aspettiamo tutti i sabati alle 15 e domenica alle 7:10 del mattino qui a Radio 24. Letture di Radio 24. tosse, starnuti, singhiozzi, rutti, peti. Il nostro corpo è una macchina meravigliosa che però produce in continuazione rumori non voluti. Questi sono quasi sempre causa di imbarazzo, anche se per alcune culture hanno un valore positivo. Il naso deve liberarsi di un irritante polline o polvere che sia, invia un messaggio al cervello per comunicare la presenza dell'intruso e la necessità di sbarazzarsene. Il cervello provvede inviando un messaggio ai muscoli del torace, agli addominali e al diaframma, alle corde vocali, ai muscoli della gola, della faccia e degli occhi. Impossibile starnutire a occhi aperti. Tutti insieme questi muscoli si contraggono e formano lo starnuto, che forza la maggior parte dell'aria fuori dai polmoni attraverso il naso e quella che avanza attraverso la bocca. Viaggia a 160 km orari e in questo caso virus e batteri possono approfittare del mezzo di trasporto. La detentrice del record degli starnuti è una 12enne inglese, Donna Griffiths, che iniziò a starnutire il 12 gennaio 1981 per finire il 16 settembre 1983. 978 giorni per oltre 1 milione di starnuti. Mentre fra gli animali, il record degli starnuti è curiosamente delle iguane, che si liberano così di alcuni sali. Nei cani, invece, lo starnuto è manifestazione di gioia. Russare. Uno dei grandi autori inglesi del Novecento, Anthony Burgess, una volta disse: «Ridi e il mondo ride con te, russa e dormi da solo». Il perché è presto detto. Il rumore del russamento può andare da 50 a 100 decibel, quasi il fragore di un martello pneumatico. Perché si russa? Quando si è coricati sul dorso, la gravità agisce sui tessuti facendoli cadere verso il basso. La lingua scivola all'indietro e chiude leggermente le vie aeree, restringendole e causando turbolenza nel via vai dell'aria. Muscoli e tessuti della gola sono inoltre rilassati e quando si respira vibrano facendo rumore. Altri fattori che possono contribuire sono la congestione nasale delle malattie da raffreddamento, il sovrappeso, la gravidanza e il consumo di alcol. Per ridurre l'inconveniente basta mettersi a dieta, evitare gli alcolici la sera e dormire sul fianco. Singhiozzo. Per gli osservatori è comico, ma per chi singhiozza non c'è nulla da ridere. È dovuto allo spasmo del diaframma. Solitamente si abbassa con l'inspirazione e si alza con l'espirazione, ma se si irrita si contrae come capita. Se il movimento è improvviso e a scatti, l'aria inspirata, passando fra le corde vocali, fa il classico suono «hi». Singhiozzano tutti, persino i feti in utero, pare, per rafforzare il diaframma e prepararlo alla respirazione. In media si emettono da 4 a 60 singhiozzi al minuto. A contarli smettono verso il 63esimo. Charles Osborne, allevatore di maiali di Anton nello Iowa, ha singhiozzato per 69 anni, dal 1922 al 1990, e tutto pare sia iniziato per lo sforzo di pesare uno dei suoi maiali. Il rischio di singhiozzo aumenta con le bevande gasate, le abbuffate e i pasti troppo rapidi. Molti gli espedienti per smettere. Inspirare e tenere l'aria nei polmoni contando lentamente fino a 10, bere dell'acqua dal lato opposto del bicchiere inclinando la testa, mettere zucchero sotto la lingua, respirare in un sacchetto di carta, spaventarsi, sbadigliare, ma ai noi nessuno è di sicura efficacia. Rutti. Un rutto è semplicemente del gas che cerca di uscire dalla porta d'ingresso, la bocca. Come c'è entrato? Quando si mangia o beve insieme al cibo, si inghiotte anche aria, soprattutto se ci si alimenta velocemente. L'aria è fatta di gas, principalmente ossigeno e azoto, cui si aggiunge l'anidride carbonica delle bevande gasate. Tutti scendono per l'esofago fino allo stomaco, dove vengono intrappolati. Man mano che lo stomaco si riempie di cibo, la bolla d'aria sale in superficie e ha sempre meno spazio, fino a quando è costretta ad uscire fragorosamente. Chi si è messo a contare sostiene che si rutti dalle 6 alle 20 volte al giorno, ciò nonostante in Occidente la pratica non è bene accetta e bisogna mettere la sordina esercitandosi a bocca chiusa. Pare che il record sia detenuto da un certo Paul Hahn, un inglese autore nel 2009 di un rutto da 109,9 decibel, cioè simile al rumore di una sega elettrica o di una moto. In alcune culture, per esempio quella cinese ma anche quella araba, indiana, africana e sudamericana, i rutti sono complimenti al cuoco. Significa che si è mangiato molto e quindi che si è gradito il pasto. Fa eccezione il Giappone, dove l'emissione rumorosa di aria non è ammessa. I paesi europei sono disomogenei, in quelli meridionali non è ammesso, mentre i popoli della cultura della birra sono meno rigorosi. Un rutto può scappare senza disdoro sociale in Germania, Olanda, Inghilterra e nella penisola scandinava. Anche in Canada un rutto non porta gravi conseguenze sociali. Peti. Il peto, invece, può essere fonte di imbarazzo o comicità. La scienza dice che tutti fanno in media da 13 a 21 peti al giorno, che escono alla velocità media di 3 metri al secondo. Inutile quindi fingere che la cosa non ci riguardi. Ci sono tribù dell'America meridionale, gli Yanomami, che vivono all'aria aperta e forse per questo emettono puzze in segno di saluto. Ma nella cultura occidentale il peto libero non è socialmente accettato. I problemi, infatti, sono due: rumore e odore. Il rumore è legato al vibrare del retto all'uscita dell'aria. Dipende dalla pressione, dalla forza dei muscoli e dello sfintere, dalle eventuali emorroidi e dalla posizione. In piedi il rumore si riduce. Il peto silenzioso ha maggiori probabilità di passare inosservato, visto che per lo più è inodore. Nei successivi 10-15 secondi si scoprirà però se è anche maleolente, e questa caratteristica dipende dalla dieta. Se ricca di alimenti contenenti zolfo, fagioli, cavoli, uova, la probabilità che passi inosservato è veramente ridotta. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Amelia Beltramini, Dacci i nostri rumori quotidiani, dal numero di luglio del mensile Focus. Secondo Riccardo Redaelli, docente alla Cattolica di Milano ed esperto di Iran, l'accordo sul nucleare siglato nei giorni scorsi rafforzerà le tendenze al cambiamento nella società iraniana, soprattutto tra i giovani, che sono più filo-occidentali e secolarizzati. Oltre metà della popolazione iraniana, 78 milioni, è nata dopo la rivoluzione di Khomeini del 1979, a meno di 35 anni. I giovani da soli non riusciranno a ribaltare il regime, come si è visto con la dura repressione dell'Onda Verde del 2009, ma possono favorire il cambiamento dall'interno del sistema. L'unica vera chance. Una parte del potere è favorevole alle istanze giovanili, pur di restare in sella, spiega Redaelli. Nel frattempo, i giovani sfidano le autorità sempre più apertamente nei grandi concerti di gruppi come Rashtak. Le ragazze ballano all'occidentale. Qualcuna osa protestare levandosi il velo o registrando un video sulle note di Happy, il tormentone di Pharrell Williams. Spesso finiscono in galera, ma la morsa si sta allentando con la presidenza di Hassan Rouhani. I concerti sono il terreno di scontro con i falchi. Il ministro della cultura li approva, ma i religiosi oltranzisti mandano gruppi di attivisti a protestare per poi farli sospendere in nome dell'ordine pubblico. Un copione già visto a Teheran, ma soprattutto nei centri minori. Le band che vanno per la maggiore mettono in repertorio un paio di brani religiosi e patriottici per accontentare i duri e puri, ma poi si scatenano trascinando i giovani. Continua Redaelli, che ha assistito a un concerto del genere. Il problema è che fra i giovani la disoccupazione in gennaio era al 25,7%. In molti sperano nell'apertura con l'Occidente per uscire dalla crisi e trovare lavoro. E non vanno sottovalutate le ragazze, che sono ormai la metà della popolazione universitaria, con punte del 70% in alcuni atenei, dove cova la voglia di cambiamento. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Fausto Biloslavo, L'Iran ora teme la meglio gioventù, da Panorama del 22 luglio. Nel giugno del 1940, Winston Churchill, da poco diventato primo ministro, tenne uno dei suoi discorsi più famosi alla Camera dei Comuni, per cercare di preparare l'opinione pubblica ad affrontare una lunga guerra con la Germania. Ma dietro ogni grande uomo, si sa, c'è sempre una grande donna. In questo caso si tratta di Clementine Churchill, che pochi giorni dopo scrive al marito per consigliargli di essere più gentile con i suoi collaboratori, perché si può regnare sui cuori solo mantenendo il proprio contegno. Mio caro, spero mi perdonerai se ti dirò una cosa che credo tu debba sapere. Uno degli uomini del tuo entourage, un amico fidato, è venuto a dirmi che rischi di creare un certo malcontento tra i tuoi colleghi e subordinati con i tuoi modi bruschi, sarcastici e autoritari. Pare che i tuoi segretari personali abbiano accettato di comportarsi come scolaretti e sopportare quel che arriva, quindi sottrarsi alla tua presenza con una scrollata di spalle. A livelli più alti, quando si tratta di proporre un'idea, mettiamo a un convegno, le persone ti considerano così altezzoso che tra poco nessuno oserà più proporre nessuna idea, buona o cattiva che sia. Sono rimasta sorpresa e turbata perché in tutti questi anni ho sempre pensato che quanti lavoravano con te e sotto di te ti volessero bene. Quando l'ho detto, mi è stato risposto: sarà senz'altro colpa dello stress. Mio caro Winston, devo confessarti che ho notato un peggioramento nei tuoi modi di fare e che non sei più così gentile come un tempo. Spetta a te dare ordini e se questi vengono eseguiti male, eccezion fatta per il re, l'arcivescovo di Canterbury e il presidente della Camera dei Comuni, puoi licenziare chi ti pare e piace. Quindi, con questo potere formidabile, devi saper mostrare al contempo cortesia, gentilezza e, se possibile, una calma olimpica. Dicevi sempre: si può regnare sui cuori solo mantenendo il proprio contegno. Non sopporterei se quanti servono il paese e la tua persona non dovessero amarti, ammirarti e rispettarti. Inoltre, non otterrai nulla con l'irascibilità e la scortesia. Sono cose che porteranno solo a malcontento o a una mentalità schiavista. Una rivolta in tempi di guerra è fuori discussione. Ti prego di perdonare la tua affezionata e accorta Clemmy. Quella che avete ascoltato era una lettera scritta da Clementine Churchill a Winston Churchill il 27 giugno 1940, tratta dal volume L'arte delle lettere, 125 corrispondenze indimenticabili, a cura di Shaun Asher, Feltrinelli 384 pagine, 35 euro. In barba a tutte le crisi, il cittadino medio del pianeta ha più anni da vivere. Secondo uno studio sanitario di portata globale, infatti, la media planetaria dell'aspettativa di vita ha superato per la prima volta la soglia dei 70 anni. Un bambino che nasce oggi vivrà in media 6 anni più a lungo di uno venuto al mondo nel 1990. Gli stati più poveri sono quelli che beneficiano in misura maggiore di questo progresso. Nei paesi dell'Africa orientale l'aspettativa di vita è cresciuta di 9 anni. In stati come il Niger, il Nepal o il Ruanda, perfino più di una dozzina. Qui il prolungamento dell'aspettativa di vita dipende dal miglioramento dei sistemi sanitari, mentre nei paesi più ricchi a fare la differenza sono le nuove terapie per il cancro e le malattie cardiovascolari. Solo in alcuni paesi dell'Africa meridionale si vive un po' meno a lungo che nel 1990, come conseguenza di un'epidemia di AIDS. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Anni guadagnati, dal numero di luglio del mensile Geo. Come regolarsi quando qualcuno ci chiede in prestito un libro? Meglio consultare prima la legge di Murphy. Per esempio, il 14° corollario di Atwood dice: non si perde mai nessun libro prestandolo, a eccezione di quelli cui si tiene particolarmente. Questa è la terza legge di Johnson. Se si perde un numero di una qualsiasi rivista, sarà il numero che conteneva l'articolo che si era tanto ansiosi di leggere. Corollari: tutti gli amici l'avranno perso, smarrito o gettato. Legge degli oggetti smarriti: l'unica maniera per ritrovare un oggetto smarrito è comprarne uno nuovo. Leggi complementari di Richard sulla proprietà: se si tiene qualcosa abbastanza a lungo, lo si potrà buttare. Qualsiasi cosa si butti, servirà non appena non sarà più disponibile. E questi erano alcuni aforismi dalla Legge di Murphy di Arthur Bloch, terzo volume della collana I grandi classici dell'umorismo. 96 pagine, 6,90 euro. In edicola in questi giorni con Il Sole 24 Ore.